Il vecchio barchino, mercoledì 20 aprile. Effettivamente, partito Jarro, la fattoria sembrò terribilmente vuota. Gatto e cane si annoiavano perché non potevano più chiacchierare con l'anatra. La padrona sentiva la mancanza dei suoi allegri schiamazzi, ma a chi ne soffriva di più era Per Ola, l'unico figlio della padrona, che aveva 3 anni e non aveva mai avuto un compagno di giochi come quello. Quando Per Ola seppe che Jarro era volato via con le altre anatre, non volle rassegnarsi e non pensò che alla possibilità di ritrovarlo. Allorché Jarro giaceva malato nel canestro, parlava con lui ed era convinto che l'anatra lo capisse. Pregò la madre di portarlo al lago a cercare Jarro e persuaderlo a tornare. La donna si rifiutò, ma non per questo il piccolo rinunciò al suo progetto. Qualche giorno dopo la fuga dell'anatra, stava giocando da solo in giardino e la madre, che doveva assentarsi, ordinò al cane: «Cesare, va a tener d'occhio per Ola». Di solito il cane avrebbe obbedito, ma in quei giorni non era più lui. Sapeva che gli agricoltori dei dintorni del Tokern si erano radunati per deciderne il prosciugamento, le anatre sarebbero scomparse e Cesare non avrebbe più potuto dar loro la caccia. Un pensiero che lo tormentava da fargli dimenticare di vegliare sul bambino. Vistosi incustodito, questi aprì il cancello, infilò il sentiero, scese alla riva del lago, chiamò ripetutamente l'anatra per nome, ma Jarro non appariva. Il bambino pensò allora che l'avrebbe trovato più facilmente in mezzo all'acqua. C'erano parecchie imbarcazioni ormeggiate a riva, ma l'unica che non fosse legata era un vecchio barchino talmente mal ridotto che nessuno se ne serviva più. Per Ola vi entrò senza badare all'acqua che ne invadeva il fondo. Non sapeva maneggiare i remi e cominciò a farla dondolare. Un adulto non sarebbe forse riuscito a staccarla a quel modo da riva, ma i bambini hanno una singolare abilità in esercizi del genere. E di lì a poco per Ola si dondolava sul Tokern, chiamando a gran voce Jarro. L'acqua entrava da tutte le fessure, ma per Ola non se ne dava pensiero, continuava a chiamare e finalmente Jarro lo udì e provò una gran gioia, pensando che c'era un essere umano che lo amava davvero. Volò a lui, rapido come una freccia, gli si accoccolò accanto e si lasciò accarezzare. Erano entrambi felici di essersi ritrovati, ma a un tratto l'anatra s'accorse che la barca stava per affondare e si rendeva conto che il piccolo non sapeva nuotare. E poiché questi non capiva quel che gli diceva, volò via in cerca di aiuto. Un istante dopo era di ritorno, portando sul dorso un ometto assai più piccolo di Perola, e se non avesse parlato lo si sarebbe creduto un pupazzo. L'ometto disse al piccolo di prendere il palo lungo e piatto che giaceva sul fondo e di spingere la barca verso un isolotto. Perola obbedì e mise piede a terra proprio nel momento in cui la barca andava a picco. Allora Perola pensò all'inquietudine dei suoi genitori e si sarebbe messo a piangere se la sua attenzione non fosse stata attratta da uno stormo di uccelli grigi calato sull'isolotto a fargli cerchio intorno. L'ometto gli disse come si chiamavano e che cosa dicevano e Perola si dimenticò di piangere. Jarro volò alla fattoria per dire a Cesare dove si trovava il padroncino. Il cane seguì l'anatra e, arrivato al lago, lo traversò a nuoto e giunse all'isolotto, dove ritrovò il piccolo tutto sorridente in mezzo alle anatre e alle oche. Cesare si trattenne a lungo, non solo per via del bambino. Era la prima volta che aveva un incontro pacifico con gli uccelli del lago e si meravigliò della loro intelligenza. «Era vero, gli domandavano i volatili, che gli uomini intendevano prosciugare il Tokern?» Cesare dovette ammetterlo e la notizia si sparse in un baleno per tutto lo specchio d'acqua e ovunque si levarono alte grida e gemiti. Disse allora Acca: «Per noi non è così terribile perché siamo di passaggio, ma se vuoi che gli uccelli rimangano sul Tokern non devi dire subito ai genitori dove si trova il loro bambino». «Seguirò il tuo consiglio», accondiscese il cane. Intanto alla fattoria si erano accorti della scomparsa del bambino. Rovistarono nelle stalle, scandagliarono il pozzo, frugarono in cantina, corsero dai vicini a chiedere se qualcuno l'avesse visto, cercarono anche sulle rive del lago, ma invano. Cesare li guardava fare tranquillo perché sapeva che Per Ola era al sicuro. Fu la madre a scoprire le orme che scendevano al lago e la scomparsa del vecchio barchino. Tutti si convinsero che il piccolo fosse annegato, ma la donna non riusciva a crederlo e continuava a chiamarlo. Era disperata, si sentiva spezzare il cuore. Non piangeva, ma a mani giunte chiamava a gran voce il figlioletto. Tutt'attorno cigni, anatre, beccaccini si lamentavano al pari di lei e la donna si meravigliò che non tacessero nemmeno dopo il tramonto. Molti la seguivano, alcuni addirittura le svolazzavano attorno, sfiorandola con le ali. Fu l'angoscia da cui era tormentata ad aprirle il cuore e a fargli comprendere i sentimenti degli uccelli. Come lei, questi si preoccupavano per le loro case e per i loro piccoli. No. Tra gli esseri umani e gli animali non c'era poi quella gran differenza che aveva supposto. Pensò al progettato prosciugamento del lago. Migliaia di cigni, smerghi e anatre avrebbero perduto il nido sulle rive del Tokern, dove avrebbero potuto covare e allevare i piccoli. Certo, prosciugare un lago per farne campi e prati può essere un'opera utile, ma non il Tokern, non la dimora di tanti uccelli. Si ricordò anche che l'indomani si sarebbe presa una decisione definitiva e si domandò se suo figlio non si fosse smarrito a bella posta proprio quel giorno. Chissà che Dio non volesse intenerire il suo cuore perché si aprisse alla pietà. Ritornò in fretta a casa, si confidò con il marito e fu ben lieta di trovarlo del suo stesso parere. Le loro terre avrebbero raddoppiato il proprio valore se si fosse prosciugato il lago ed era stato proprio lui, il marito, il promotore dell'iniziativa, ma anche l'uomo si chiese se nella scomparsa del figlio non si dovesse vedere un segno della volontà divina. Forse non si desiderava che si mutassero i suoi disegni con progetti umani. Mentre i due genitori discorrevano, Cesare se ne stava accovacciato accanto al focolare ascoltando, e quando gli parve di non poter più dubitare della loro risoluzione, si alzò, afferrò la madre per il grembiule e la tirò verso l'uscio. La donna cercò di resistere, ma poi capì e gridò: «Sai forse dove si trova? Per Ola?» Il cane abbaiava saltando contro l'uscio e allora la donna lo aperse e seguì l'animale che correva verso il lago. Giunta sulla riva, udì un pianto infantile. In compagnia di Nils e degli uccelli, per Ola aveva passato la giornata più divertente della sua vita, ma adesso aveva fame e paura del buio. E con che gioia accolse la madre e Cesare giunti a riprenderselo. Era ormai notte, ma gli uccelli continuavano a svolazzare chiassosi attorno alla barca, facendo festa. La profezia, venerdì 22 aprile. Una notte, mentre dormiva su un isolotto del Tokern, Nils fu risvegliato da tonfi di remo. Aprì gli occhi e restò abbagliato da una luce intensa che proveniva da una barca a poppa della quale ardeva una grossa torcia. La luce doveva aver incantato i pesci perché nel suo riflesso era tutto un frenetico guizzare. A bordo erano due uomini, uno ai remi, l'altro a poppa con una fiocina in mano. Il vogatore era vecchio e aveva l'aspetto di un povero pescatore, piccolo, magro, abbronzato, con indosso una logora casacca. Abituato a vivere all'aria aperta, non sentiva il freddo. L'altro, molto più giovane, ben vestito e ben nutrito, aveva l'aria autoritaria e risoluta dell'agricoltore ricco. «Fermo!» ordinò questi quando furono vicinissimo all'isolotto. Lanciò la fiocina e quando la ritirò vi era infilzata una grossa anguilla. «Ecco fatto!» disse staccandola. «Credo che possiamo rientrare». L'altro si guardò attorno senza muovere i remi. «Com'è bello il lago stanotte!» mormorò. Ed era vero, non spirava un alito di vento, l'acqua era perfettamente liscia, la volta del cielo trapunta di stelle, ovunque canneti celavano le rive, salvo a ovest dove si stagliava sul cielo il grande triangolo del Monte Om. «Sì, è proprio bello questo lago», ripeté il più giovane, «ma la bellezza non è il suo maggior pregio». «E qual è allora?» domandò il rematore. «La nostra provincia è stata sempre famosa per la sua prosperità», rispose il giovane. «Vero», convenne il vecchio. «E lo sarà sempre», soggiunse il giovane. «Chi può dirlo?» fece il vecchio. L'agricoltore si appoggiò alla fiocina e disse: «Nella nostra famiglia si è tramandata di padre in figlio un'antica storia in cui si narra cosa ne sarà del nostro paese, e a un vecchio amico come te posso anche confidarla. Nel castello di Ulvosa, nell'Östergötland, viveva molto tempo fa una dama che aveva il dono di conoscere il futuro e molti venivano a lei anche da lontano. Un giorno che la dama era intenta a filare nella grande sala del castello, entrò un contadino che si sedette accanto all'uscio. Vorrei sapere a che cosa pensate, signora. A cose elevate e sante, rispose la dama. Posso chiedervi qualcosa che mi sta a cuore? Oh, a te non può stare a cuore altro che di sapere se avrai un buon raccolto, ma io vengo interrogata dall'imperatore circa la sorte della sua corona e dal papa che si preoccupa delle sue chiavi. E il contadino osservò, domande alle quali non è certo facile rispondere, ma ho saputo che nessuno è ripartito di qua soddisfatto. A queste parole la dama di Ulvosa si morse il labbro. Ah, questo hai sentito dire di me? Bene, mettimi alla prova e vedrai se non ti rispondo in maniera soddisfacente. Il contadino le disse allora che desiderava conoscere l'avvenire dell'Östergötland e lei, com'è vero che sono qui seduta, l'Östergötland avrà sempre qualcosa da vantare rispetto alle altre province. Il contadino scosse il capo e chiese come faceva a esserne tanto sicura e la dama. Credi forse che in Svezia ci sia un'altra provincia che abbia due monasteri come quelli di Alvastra e di Vreta e una cattedrale come quella di Linköping? D'accordo, replicò il contadino, ma io sono vecchio, il cuore umano è volubile e temo che verrà giorno in cui non ci onoreranno né per i nostri conventi né per la nostra cattedrale. E la dama, hai ragione, ma la mia profezia è certa. Sarà costruito un nuovo monastero a Vadstena che diverrà il più celebre del nord. Nobili e contadini vi andranno in pellegrinaggio e tutti loderanno la terra che possiede questo luogo sacro. Il contadino le fece osservare che anche la fama del santuario di Vadstena si sarebbe spenta e la dama gli disse che prima che questo accadesse avrebbero innalzato vicino al monastero un castello in cui avrebbero soggiornato re e principi. E ne sarebbe derivata grande gloria al paese. Ma il contadino insistette. Sparito il castello, che cosa avrebbe attirato gli sguardi degli uomini verso il loro paese? La dama, che leggeva il futuro, rispose che si sarebbero costruite fabbriche per lavorare il ferro e che le fabbriche sarebbero state celebri in tutto il mondo e la provincia ne avrebbe ricavato ricchezza. Scomparsa anche la fama delle fabbriche, di che cosa avrebbe potuto gloriarsi l'Östergötland? Volle sapere il contadino. E la dama parlò delle sorgenti minerali di Mevedi vicino al lago Fetar, e poi di un canale navigabile che avrebbe attraversato tutta la regione. È una buona notizia, disse il contadino, ma anche questo un giorno sarà dimenticato e abbandonato. Allora l'indovina sbottò: sì, tutto passa. Ma c'è una cosa che in questo paese non passerà mai, ed è la testardaggine e l'orgoglio dei contadini come te. A quelle parole l'uomo si alzò tutto contento e la ringraziò con calore. Finalmente era soddisfatto, disse. Non ti capisco, fece l'indovina. Mia cara signora, spiegò il contadino, tutto quello che fanno i re, i principi, i monaci e i cittadini non dura che anni. Ma finché ci saranno contadini onesti e resistenti nell'Östergötland, la provincia conserverà la sua antica fama, perché soltanto coloro che si curvano a terra nel loro eterno lavoro sanno conservare nei secoli dei secoli la prosperità e la gloria del loro paese. Il pezzo di traliccio. Sabato 23 aprile. Volando altissimo, Nils guardava trascorrere sotto di sé la vasta piana dell'Östergötland e si divertiva a contare le chiese biancheggianti tra il verde degli alberi. Arrivato a 50, si confuse e smise. La maggior parte delle masserie erano case a due piani dipinte di bianco e ben tenute. E le oche presero a schiamazzare. Qui i contadini vivono come signori, qui i contadini vivono come signori. Chiese Nils, che specie di gamberi sono quelli che strisciano per i campi? Risposero le oche, sono buoi e aratri. I buoi andavano tanto lenti da sembrare fermi e le oche a gridare, arriverete l'anno venturo, arriverete l'anno venturo. I buoi rispondevano muggendo, è più utile un'ora del nostro lavoro che tutta la vostra vita di vagabonde. Anche i cavalli tiravano l'aratro e le oche. Non vi vergognate di fare il lavoro dei buoi? Rispondevano i cavalli nitrendo. Non vi vergognate di stare sempre in ozio? A un montone tosato di fresco, che si aggirava superbo per il cortile di una fattoria, le oche gridarono: Montone, montone, che ne hai fatto della tua lana? E quello di rimando: L'ho mandata alle fabbriche di Norrköping. Le oche allora: Montone, montone, che ne hai fatto delle tue corna? In realtà le corna le aveva, ma così piccole che costituivano il suo cruccio, e per la rabbia cominciò a saltare di qua e di là, dando colpi a vuoto nell'aria. E mentre il volo continuava allegramente, Nils rimuginava una leggenda che aveva udito narrare anni prima. Non se la rammentava bene, ma solo che vi si parlava di un mantello, una parte del quale era di drappo d'oro, l'altra di semplice traliccio. Il proprietario però aveva intessuto nel traliccio tante pietre preziose che la stoffa povera brillava più della ricca. Se ne sovvenne osservando l'Östergötland, provincia composta da una parte montagnosa e boscosa, splendente nella luce del mattino come avvolta in un velo d'oro, e da una pianura dove i campi nudi, come d'inverno, davano proprio l'impressione di un grigio traliccio, ma gli uomini delle pianure erano buoni e generosi e avevano fatto del loro meglio per ornarla. Città e casolari, chiese, fabbriche, castelli e stazioni visti da lassù sembravano altrettanti gioielli e le strade maestre, le ferrovie e i canali sembravano ricami di seta che percorressero la regione. Non c'era molto ordine in quel profluvio di gioie, ma nell'insieme la magnificenza era tale che il ragazzo non si stancava di ammirarla. Nel frattempo, dopo aver seguito verso est il canale di Goethe, le oche avevano piegato in direzione della foresta del Kolmården e per qualche istante volarono al di sopra di una vecchia strada comunale che serpeggiava sul margine di strapiombi e burroni. A un tratto Nils mandò un grido. A furia di agitare tutto allegro i piedi, aveva lasciato cadere uno zoccolo. Morten, Morten! Prese a gridare. M'è caduto uno zoccolo! Il papero tornò indietro, abbassandosi verso terra, ma Nils si avvide che lo zoccoletto era stato raccattato da due ragazzi che procedevano lungo la strada. Morten, Morten! Gridò allora. È troppo tardi! Torna in alto! Qualcuno l'ha già preso! Sulla strada, Åsa e il fratellino Mats osservavano incuriositi lo zoccoletto che era caduto dal cielo. Sono le oche selvatiche che l'hanno perduto, disse Mats. Ma Åsa scosse il capo. Non ti ricordi? Replicò che in una fattoria presso il convento di Öved ci hanno raccontato di aver visto un coboldo con i calzoni di cuoio e gli zoccoli come un bracciante. E non ti ricordi di quella ragazza che ci ha parlato di un nanetto con gli zoccoli che volava in groppa un'oca? E anche noi a casa nostra abbiamo visto un ometto vestito a quel modo che si teneva abbracciato al collo di un'oca selvatica. E forse è lo stesso che ha perduto lo zoccolo volando sopra di noi, non ti pare? Sì, deve essere proprio lui, convenne Mats. E i due voltavano e rivoltavano la calzatura perché non avevano mai visto prima lo zoccolo di un coboldo. Guarda, Mats, disse Åsa, qui c'è scritto qualcosa. I caratteri erano così piccoli che a stento riuscirono a decifrare la scritta. Nils Holgersson di Vemmenhög Ovest. Ah, questa poi è la cosa più straordinaria che mi sia mai capitata, esclamò Mats. Karr e la saga di Pelogrigio. Karr. Tra l'Östergötland e il Sörmland si leva un monte che sorge improvviso dalla pianura, massiccio e dirupato, tanto che lo si direbbe capace di sostenere cime immani. E invece è basso, come se il costruttore avesse di proposito lasciato a mezzo il proprio lavoro. In compenso è rivestito di una vegetazione lussureggiante, querce e tigli nelle vallate, pioppi e olmi sulle rive dei laghi, arbusti e pini sui fianchi scoscesi. È questa la foresta del Kolmården che un tempo godeva di pessima fama perché dava ricetto a belve banditi. Un po' alla volta, però, gli uomini si accorsero che si poteva ricavarne un utile estraendone la legna e facendone assi e travi da vendere alla gente di pianura, che aveva già abbattuto i propri alberi. Scoprirono così che la foresta dava pane non meno dei campi e allora la guardarono con animo diverso e la considerarono amica. Circa 12 anni prima del viaggio di Nils Holgersson con le oche, un grande signore di Kolmården decise un giorno di disfarsi di uno dei suoi cani da caccia che aveva il vizio di assalire le pecore e le galline. Diede ordine al suo guardacaccia di condurlo nella foresta per ammazzarlo. L'uomo gli mise il guinzaglio e lo trascinò verso il luogo dove si uccidevano e seppellivano gli animali che non erano più di alcuna utilità. Il cane, piccolo e nero, aveva il petto e le zampe anteriori gialle. Si chiamava Kar ed era così intelligente che capiva tutti i discorsi degli uomini. Quando il guardacaccia lo portò nella foresta, il cane capì immediatamente ciò che lo aspettava, ma fece finta di nulla. Era stato sempre lui a spaventare gli abitatori del bosco. E che cosa avrebbero detto se l'avessero visto atterrito? Si mise a dimenare la coda e ad abbaiare allegramente, fingendosi spensierato. All'improvviso però gli tornò in mente quel che era accaduto il giorno prima e si fermò, alzando il muso come se stesse per ululare. Si era all'inizio dell'estate e le femmine di Alce avevano da poco partorito i piccoli. Kar era riuscito ad allontanarne uno dalla madre e a spingerlo verso la palude, non per fargli del male, ma solo così, per spaventarlo. La madre sapeva che in quella stagione, dopo il disgelo, il fondo melmoso non avrebbe potuto sostenere un animale pesante come lei, ma visto il piccolo in pericolo, gli era corsa dietro. Gli alci sono abilissimi nell'attraversare le paludi senza affondare nel fango e anche quella volta madre e figlio erano sul punto di raggiungere la sponda quando un monticello di terra su cui la madre aveva messo la zampa era franato e la povera bestia era sprofondata. Aveva tentato di liberarsi dalla presa del fango, ma i suoi sforzi erano serviti solo a farla affondare vieppiù. Kar era rimasto a guardare sbalordito e quando si era accorto che l'alce era spacciato, se l'era data a gambe. Guai se avessero scoperto che era stato lui la causa della morte della povera bestia. In preda alla paura, era corso senza fermarsi fino a casa. Memore dell'incidente, Kar era triste, ma a un tratto gli balenò l'idea che forse madre e figlio erano ancora vivi e non poté resistere alla tentazione di sapere. Diede un violento strattone al guinzaglio che il guardacaccia teneva distrattamente e filò verso la palude. Era lontano quando l'uomo puntò il fucile per sparargli. Lo inseguì e lo scorse che s'addentrava nella palude a pochi metri dalla terraferma, ululando con quanto fiato aveva in gola. Incuriosito, l'uomo si mise carponi, avanzando a quattro zampe sul ghiaccio e scoprì così un alce annegato nella melma. Accanto, un piccolo alce ancora vivo ma incapace di muoversi, tant'era sfinito. E Kar, curvo sul piccolo, ora lo leccava, ora lanciava richiami di aiuto. Il guardacaccia trasse la bestiola in salvo. Il cane pareva impazzito dalla gioia, saltellava attorno all'uomo, guaiolando e leccandogli le mani. Messo il piccolo alce al sicuro nella stalla, l'uomo si ricordò che doveva uccidere Kar e con lui tornò verso la foresta. Ma a mezza strada si fermò. Ebbe un attimo di esitazione, poi in fretta tornò verso il castello. Kar lo seguì, ma adesso era tutto mogio. Il guardacaccia doveva aver capito che la colpa della morte dell'alce adulto era sua e prima di ucciderlo chissà quante frustate gli avrebbe dato. Il padrone stava sulla scalinata. Kar si fece piccolo piccolo, rannicchiandosi dietro le gambe del guardacaccia che riferì la storia degli alci. Ma guarda un po', tessé l'elogio del cane, che, accortosi che erano in pericolo, aveva cercato di salvarli. Il signor padrone mi perdoni, concluse, ma io non me la sento di uccidere questo cane. Il padrone convenne che Kar aveva agito bene e disse all'uomo: se vuoi tenerlo tu e mi garantisci che non combinerà più guai, che viva pure. Il guardacaccia accettò e Kar andò ad abitare nella casa forestale. La fuga di Pelogrigio. Kar rinunciò completamente al bracconaggio, non tanto per paura quanto per non far arrabbiare il guardacaccia a cui doveva la vita e al quale si era affezionato. Lo seguiva dovunque andasse. A casa se ne stava sdraiato sulla soglia a sorvegliare il vaivieni della gente. Quando il guardacaccia lavorava nell'orto, Kar andava a giocare con il piccolo alce al quale l'uomo aveva imposto il nome di Pelogrigio. E Kar pensava che non poteva essercene uno più adatto. A volte, osservandolo, si diceva che non c'era in tutto il mondo bestia più brutta e goffa. Le gambe erano lunghe come trampoli, la testa enorme e rugosa come quella di un vecchio, la pelle sovrabbondante cascava da tutte le parti e il piccolo aveva l'aria triste e abbattuta. Si riscuoteva dalla sua apatia solo alla vista di Carl. Sembrava malaticcio. Non cresceva, peggiorava a vista d'occhio e finì che non si alzò più nemmeno alla vista dell'amico. Cara allora saltò nel recinto e prese a leccarlo e una scintilla s'accese negli occhi del piccolo. E accadde qualcosa di straordinario. L'alce cominciò a riprendersi e a crescere. In capo a 2 settimane il recinto dei vitelli era divenuto troppo angusto per lui e lo si dovette trasferire in un pascolo cintato. 2 mesi più tardi era in grado di saltare lo steccato e il guardacaccia eresse una palizzata molto più alta attorno a un boschetto dove l'alce visse parecchi anni diventando uno splendido animale. Ma era sempre melanconico e apatico, solo Car riusciva a rianimarlo. Pelo Grigio stava da 5 anni col guardacaccia quando il proprietario della tenuta ricevette un'offerta d'acquisto da un giardino zoologico straniero e l'accettò. Car, venuto a saperlo, corse ad avvertire l'amico che accolse la notizia con indifferenza e alle rimostranze del cane replicò: "Che vuoi che ti dica? Preferirei restare, ma se hanno deciso di vendermi non c'è niente da fare." Car squadrò ben bene l'alce. Non aveva ancora raggiunto il massimo della statura, gli mancavano le grandi corna, l'alta gobba, la criniera eretta dei maschi adulti, ma possedeva forza sufficiente per difendere la propria libertà. Tornò a fargli visita dopo mezzanotte, quando Pelogrigio, dopo un buon sonno, faceva il primo pasto. "Hai ragione di lasciarti portare via senza ribellarti", gli disse. "Starai in un bel giardino e non avrai più pensieri. Peccato solo che te ne vada prima di aver conosciuto la foresta." E l'alce: "Mi piacerebbe vederla, ma non posso uscire dallo steccato." "Già", commentò Cara, "impossibile quando si hanno le zampe così corte." L'alce lo sbirciò di sottecchi. Car, piccolo com'era, saltava la palizzata più volte al giorno. E Pelogrigio s'accostò all'assito, spiccò un balzo e si trovò libero, quasi senza accorgersene. Lui e il cane si incamminarono verso la foresta. Era uno splendido plenilunio di fine estate, ma nel bosco era buio e l'alce procedeva con lentezza. "Forse è meglio tornare a casa", disse Car. "Non sei abituato a camminare nella foresta e potresti farti male." L'alce fece finta di nulla, ma accelerò il passo e drizzò la testa. Carlo condusse nel fitto della foresta, dove gli alci cercavano rifugio dai temporali e dal freddo. "Tu però avrai un alloggio assai migliore", gli disse, "nella stalla come un bue." Lo condusse poi alla palude e gli mostrò i passaggi sicuri attraverso gli acquitrini, quelli per non affondare. Ma Pelogrigio non avrebbe corso rischi, i cacciatori non l'avrebbero mai inseguito. L'alce s'avventò sul pantano, percorrendolo in tutti i sensi, prima di tornare a riva. "Beh, la foresta è tutta qui?" Carlo portò ai margini, dove crescevano alberi rigogliosi, le cui foglie e la cui scorza erano una leccornia per gli alci. "Ma tu," concluse, "al giardino zoologico mangerai molto meglio." L'alce assaggiò le foglie delle querce e la corteccia dei pioppi e disse che le preferiva al trifoglio. Poi seguì il cane a un laghetto che Car gli spiegò i suoi simili attraversavano a nuoto e l'alce pretese di fare anche quell'esperienza. E quando Car gli propose di rincasare, non volle saperne. Continuarono ad aggirarsi per la foresta finché si imbatterono in un branco di alci, un maschio, qualche femmina, parecchi piccoli. E Pelogrigio rimase affascinato dal vecchio capobranco ornato di stupende corna, di un'alta gobba e di una lunga barba. "Chi è?" chiese con voce tremante. "Si chiama Incoronato," rispose Car, "ed è uno dei tuoi parenti. Anche tu un giorno sarai come lui." Pelogrigio volle andare a vederlo da vicino, ma tornò subito indietro spiegando che gli aveva detto che vedeva i suoi parenti per la prima volta, ma che Incoronato l'aveva minacciato con i palchi. "Hai fatto bene a ritirarti," approvò Car. "Un giovane come te, con le corna appena spuntate, non deve misurarsi con i vecchi alci. Un altro che come te avesse ceduto senza resistere, A quest'ora sarebbe la favola della foresta, ma che importa a te che vai all'estero? Pelogrigio non lo lasciò finire, gli aveva voltato le spalle e andava verso la radura. Il capobranco gli andò incontro e cominciò la lotta. Pelogrigio dovette indietreggiare lungo tutta la radura, ma giunto al margine del bosco puntò i piedi, si inarcò e con uno sforzo vigoroso riuscì a respingere l'avversario. Lottava in silenzio mentre il vecchio ansimava. Si udì uno scricchiolio, era un corno che si spezzava e il vecchio alce si volse e fuggì. Beh, adesso che hai visto tutto quello che c'è nella foresta, vuoi che ritorniamo? Chiese Car. Sì, rientriamo, è ora, rispose Pelogrigio. Ma quando furono davanti allo steccato si fermò, rialzò la testa e gridò: L'alce e la foresta sono una cosa sola. E fuggì di gran carriera verso il bosco. La morte di Pelogrigio. Il pomeriggio H di Chebnekaise e il suo stormo scesero sulle rive di un lago che si trovava nella foresta del Kolmården, ma già entro la provincia di Sörmland. Lungo la riva il ghiaccio si era sciolto e le oche si buttarono in acqua a bagnarsi e a cercare cibo, mentre Nils, che proprio quella mattina aveva perduto lo zoccolo, andò a frugare tra olmi e betulle per trovare qualcosa con cui coprirsi il piede nudo. Raccolse un pezzo di corteccia e stava per avvolgervi il piede quando udì un fruscio tra le foglie. Si volse e vide venirgli addosso un serpente lunghissimo e grossissimo. Si avvide però che aveva una macchia chiara sopra la testa e non si mosse. Ma non è che una biscia, pensò, e non può farmi del male. Ma la serpe gli sferrò al petto una testata tale da farlo cadere. Nils si rialzò e fuggì, e il rettile dietro. Scalò un pendio in cima al quale vide un sasso grosso come una testa umana. Il sasso era in bilico e a Nils bastò dargli una spinta perché piombasse sulla serpe schiacciandole il capo. Il ragazzo tirò un sospiro di sollievo, ma in quella scorse un uccello calare accanto alla biscia. Aveva l'aspetto e le dimensioni di una cornacchia, ma una livrea nera dai riflessi metallici. Memore della sua avventura tra i corvi, Nils si nascose in una fenditura. L'uccello zampettò due volte attorno al rettile, sbatté le ali, gridò con voce acutissima: L'insidiosa è morta! E le fece un altro giro attorno. Si grattò la testa con una zampa, parve riflettere e disse: Impossibile che nella foresta ci siano due serpi come lei! È proprio l'insidiosa! Stava per affondare il becco nelle carni del rettile, ma si fermò a mezzo. Non fare lo sciocco, Batacchi, borbottò. Puoi forse mangiare la biscia prima di aver chiamato Car? Altrimenti, come potrebbe credere che la sua peggiore nemica sia proprio crepata? L'uccello era così buffo che Nils scoppiò a ridere e gli andò incontro. Sei tu, Bataki, il corvo amico di Akka di Chebnekaise? Gli chiese. L'uccello lo fissò, scosse tre volte il capo e rispose: E tu sei Nils, il compagno delle oche selvatiche. Sono proprio io. Che fortuna incontrarci. Puoi dirmi chi ha ucciso Insidiosa? Nils gli raccontò come erano andate le cose e Bataki, dopo essersi complimentato con lui, gli disse che un suo amico ne sarebbe stato felicissimo. Ascolta, soggiunse, è proprio lui, Car, deve essere vicino. Nils tese l'orecchio, sta discorrendo con le oche. Sarà andato al lago per avere notizie di Pelogrigio, fece Bataki, e tutte e due si avviarono a quella volta. Car era ormai così vecchio che sembrava dovesse esalare l'ultimo respiro da un momento all'altro. Era intento ad ascoltare H che raccontava del loro precedente viaggio di primavera. Ixi, Caxi e io, diceva, un mattino attraversavamo le cupe foreste tra la Dalecarlia e lo Helsingland, quando abbiamo visto tre cacciatori che procedevano tra gli alberi con gli sci ai piedi e i cani al guinzaglio. Erano però senza fucili, andavano sicuri come se avessero una meta precisa. E allora ci ha preso la curiosità di vedere la selvaggina. Gira e rigira, sopra la foresta, a un certo punto abbiamo intravisto qualcosa che sembrava un mucchio di pietre muschiose, ma pietre non potevano essere perché sopra non c'era neve. In quella le pietre si sono mosse. Erano tre alci, un maschio e due femmine. Ci siamo posate a terra e abbiamo detto al maschio, il più bello che avessi mai visto, Fuggi, ci sono cacciatori nei pressi. E lui. Grazie tante, mamma Oca, ma la caccia agli alci in questa stagione è proibita. Saranno in cerca di volpi. E E io: no, le tracce di volpe erano dappertutto, ma i cacciatori le ignoravano. Vi dico che vengono per ammazzarvi. Hanno scoperto il vostro nascondiglio. Sono senza fucili, ma hanno coltelli e spiedi. Non osano sparare in questa stagione. L'alce non dava segno di paura, ma le femmine hanno cominciato ad agitarsi e hanno fatto l'atto di alzarsi. State giù, ha ordinato il maschio, e i cacciatori non verranno fin qui. Beh, visto che non c'era niente da fare, ci siamo alzati in volo, restando nei pressi, ed ecco l'alce muovere verso gli inseguitori. Lì vicino c'era una grande palude e l'alce è andato a piantarsi in bella vista proprio in mezzo all'acquitrino. I cacciatori sbucano dalla foresta e lui via in direzione opposta a quella da cui era venuto. I cacciatori sguinzagliano i cani e lo rincorrono sugli sci. L'alce si fermava ad aspettarli e quando gli erano vicini, via di nuovo. Si capiva che voleva allontanarli dal luogo in cui stavano le femmine. La caccia durava da ore e noi ci stupivamo della tenacia dei cacciatori. Possibile che sperassero di farcela senza fucile? Ma l'alce aveva rallentato l'andatura e lasciava sulla neve tracce di sangue. Pesante com'era, affondava nella neve ghiacciata che gli feriva le zampe, strappandogli pelo e pelle. L'alce continuava a fuggire, ma ormai ansimava e a un certo punto si è fermato ad aspettare gli inseguitori per l'estremo scontro. Ha lanciato un'occhiata al cielo, ci ha visti e ha gridato: aspettate di vedere la fine, oche selvatiche, e poi riattraversate la foresta del Kolmården e cercate Kar, il cane, e ditegli che il suo vecchio amico pelo grigio è morto da eroe. A questo punto il vecchio cane commentò: pelo grigio ha avuto una bella vita. Mi conosceva e sapeva che anch'io sono coraggioso e che mi sarebbe piaciuto sapere che è morto degnamente. E adesso raccontami. Aveva mosso la coda e drizzato la testa per darsi un contegno spavaldo, ma subito si era accasciato perché dal bosco una voce umana gridava: Car! Car! E il vecchio cane: è il mio padrone che mi chiama. Non voglio farlo aspettare. Ho visto poco fa che caricava il fucile. Andiamo a caccia, ma forse per l'ultima volta. Ti ringrazio, oca selvatica. Adesso so quel che avevo bisogno di sapere per sentirmi contento e andare tranquillo verso la morte.